casa lumicino Cuore nero, un cammino Sono più chiare delle nevi di Turandò Ferro, bronzo, muro, roccia Di moschina, da cuor capoccia Sono venturi delle nevi di Turandò Dunque fa saluto a tutti Guarda i monti, dalle flutti Dalla larga, dalle nevi di Turandò Signore, ascolta. Yeah.

La pace ridà noi si sogna e il palazzo già formicola di servi di soda udì per gran lavoro del vecchio verde già scrivono le finite già vale di tempino udite trombe altro che pace ma inizia la cerimonia andiamo a poter un cinesimo splizio Il sole

Thank you. Il mio nome. disperando per le vie di Pechino ad ogni porta batte la morte e grida di dolore, di dolore, di dolore, di sangue. Amorete, amore, di tu che vuoi, di tu che vuoi, di tu che vuoi, e l'amore che cerchi tu che vuoi, di tu che vuoi. Storia quel nome? No. Quel nome? Bravo servo, chiede perdono, ma venire non può. No! Perché gridi? Lasciatela! Principessa, So

天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.